Pronti? Motore. Partito. Ciak. Azione. La smetta di frequentare il passato. Cerchi di frequentare il futuro. Audiogrammi di Laura Faggin e Paolo Corleoni. You are a cinema, a Hollywood treasure. I love you just the way you are. A cinema, a cinema. Mettetevi comodi, stiamo per raccontarvi Sostiene Pereira di Roberto Faenza. È la storia di un anziano giornalista vedovo che nella Lisbona degli anni 30 vorrebbe occuparsi solo della pagina culturale del suo giornale, ignorando che la dittatura salazarista si sta insinuando nel paese. Il gioco durerà fino all'incontro con Monteiro e Marta, due giovani che metteranno Pereira di fronte all'incalzare drammatico del regime. Audiogrammi in radio come al cinema. Sostiene Pereira che era una magnifica giornata d'estate, soleggiata e ventilata. Lisbona sfavillava e come tutte le mattine si era alzato presto. E per caso, per puro caso, si mise a sfogliare una rivista. Era una rivista letteraria che però aveva una sezione di filosofia. Una rivista d'avanguardia, forse, di questo Pereira non è sicuro, ma che aveva molti collaboratori cattolici, e trovò un articolo che diceva: da una tesi discussa il mese scorso all'Università di Lisbona, pubblichiamo una riflessione sulla morte. L'autore è Francesco Monteiro Rossi, che si è laureato in filosofia a pieni voti. E questo è solo un brano del suo saggio, perché forse in futuro egli collaborerà nuovamente con noi. Sostiene Pereira che da qualche tempo anche lui pensava alla morte. Perché? Sarà perché il suo povero padre, quando lui era piccolo, aveva un'agenzia di pompe funebri che si chiamava Pereira la Dolorosa. Sarà perché sua moglie, che ricordava con struggente rimpianto, era morta di tisi qualche anno prima. Sarà ancora perché lui era grasso, soffriva di cuore, e il dottore gli aveva detto che gli restava poco tempo da vivere se non si curava seriamente. Sostiene Pereira che da principio si mise a leggere distrattamente l'articolo, che non aveva titolo. Poi macchinalmente tornò indietro e ne ricopiò un pezzo. Perché lo fece? Questo Pereira non è in grado di dirlo. Forse perché quella rivista d'avanguardia cattolica gli dava fastidio. Sostiene che non lo ricopiò tutto. Ne ricopiò solo alcune righe, che sono le seguenti, e che può documentare. Il rapporto che caratterizza in modo più profondo e generale il senso del nostro essere è quello della vita con la morte, perché la limitazione della nostra esistenza mediante la morte è decisiva per la comprensione e la valutazione della vita. Poi prese l'elenco telefonico. Il signor Monteiro Rossi? Sono il dottor Pereira, responsabile della redazione culturale di Lisbona. Ho appena letto il suo articolo, lo trovo molto... No, le ho telefonato perché sto cercando un collaboratore per la pagina culturale del Sabato e mi domandavo se lei si è appena laureato questa sera. Oh, benissimo, sì, una canzone napoletana. Capisco, la cultura non dà da mangiare. Bene, grazie e a stasera. Riattaccò la cornetta, si asciugò il sudore e poi gli venne una magnifica idea di fare una breve rubrica intitolata Ricorrenze e pensò di pubblicarla subito per il prossimo sabato. E così, quasi macchinalmente, forse perché pensava all'Italia, scrisse il titolo. 2 anni fa scompariva Luigi Pirandello. E poi sotto scrisse l'occhiello. Il grande drammaturgo aveva presentato a Lisbona il suo Sogno ma forse no. Era il 25 di luglio del 1938 e Lisbona scintillava nell'azzurro di una brezza atlantica. Il termometro segnava 38 gradi. Pereira spense il ventilatore, trovò la portiera sulle scale che gli disse «Arrivederci, dottor Pereira». Annusò ancora una volta l'odore di fritto che aleggiava nell'atrio e uscì finalmente all'aperto. Davanti al portone c'erano i mercati rionali e la Guardia Nazionale Repubblicana vi stazionava con due camionette. Pereira sapeva che i mercati erano in agitazione perché il giorno prima, in Alentejo, la polizia aveva ucciso un carrettiere che riforniva i mercati e che era socialista. Per questo la Guardia Nazionale Repubblicana stazionava davanti ai cancelli dei mercati. Ma in Lisboa non aveva avuto il coraggio di dare la notizia, o almeno il vice direttore, perché il direttore era in ferie. Si recò al caffè Orchidea, che era lì a due passi dopo la macelleria ebraica, e si sedette a un tavolino, ma dentro il locale, perché almeno c'erano i ventilatori, visto che fuori non si poteva stare dalla calura. Ordinò una limonata e si fece portare un sigaro. Pereira cominciò a sudare, sostiene, e pensò di nuovo alla resurrezione della carne. Pensò se era il caso di andarsene a casa sua a fare un bagno fresco, o se non era il caso di andare a trovare il suo amico parroco, Don Antonio, dal quale si era confessato alcuni anni prima, quando era morta sua moglie, e che andava a trovare una volta al mese. Pensò che era meglio andare a trovare Don Antonio. Forse gli avrebbe fatto bene. Avanti. Ti concedo 2 minuti. Che altro c'è oggi? E che non faccio altro che pensare alla morte. Mi pare che tutto il mondo sia morto o in procinto di morire. E poi io credo nell'anima e nella sua resurrezione, ma non in quella della carne, la ciccia che mi accompagna il sudore, perché mai dovrebbero risorgere anche loro? Non vorrei che io stia qui ad ascoltare simili eresie. Ma padre Antonio, non sono ancora passati 2 minuti. E gli venne la bizzarra idea che lui forse non viveva, ma era come se fosse già morto. La sua era solo una sopravvivenza, una finzione di vita. E si sentì spossato, sostiene Pereira. Riuscì a trascinarsi fino alla più vicina fermata del tram e ne prese uno. E intanto dal finestrino guardava sfilare lentamente la sua Lisbona. Discese all'altezza della cattedrale, perché lui abitava lì vicino. Salì faticosamente la rampa di strada che portava fino a casa sua. Suonò alla portiera perché non aveva voglia di cercare le chiavi del portone, e la portiera, che gli faceva anche da donna di servizio, venne ad aprirgli. Salì le scale e nell'ingresso di casa sua si soffermò davanti alla libreria dove c'era il ritratto di sua moglie. Quella fotografia l'aveva scattata lui, nel 1927. Era stato durante una gita a Madrid. «Scusa se sono un po' in ritardo», disse Pereira. Sostiene Pereira che da un po' di tempo aveva preso l'abitudine di parlare al ritratto della moglie. Gli raccontava quello che aveva fatto durante il giorno, gli confidava i suoi pensieri, chiedeva consigli. Poi andò in cucina, si sedette alla tavola e tolse il coperchio che copriva la padella con la bracciola fritta. Era una bracciola fredda, ma non aveva voglia di scaldarla. mangiò rapidamente, andò in bagno, si lavò le ascelle, si cambiò la camicia, si mise una cravatta nera e si dette un po' di profumo spagnolo che era rimasto nel flacone che aveva comprato nel 1927 a Madrid. Poi indossò una giacca grigia e uscì per andare in Praça d'Allegria, perché ormai erano le 9 di sera. Pereira sostiene che la città sembrava in mano alla polizia quella sera. Ne trovò dappertutto. Forse avevano paura di manifestazioni o di concentrazioni di piazza. E per questo presidiavano i punti strategici della città. Lui avrebbe voluto proseguire a piedi, perché il cardiologo gli aveva detto che gli ci voleva del moto, ma non ebbe il coraggio di passare davanti a quei militari sinistri. Passando, sentì un ufficiale che diceva ai soldati: «E ricordatevi, ragazzi, che i sovversivi sono sempre in agguato. È bene stare con gli occhi aperti». Mas una cosa certa io sei, non tive nunca amor maior. Lui si mise a passeggiare tranquillamente sul marciapiede centrale e a quel punto, sostiene, cominciò a sentire la musica che veniva dalla piazza stranamente senza polizia. Audiogrammi Radio 24 è anche su Facebook e in podcast su radio24.it. Era una musica dolce e malinconica. La piazza era abbellita con festoni di carta, con lampadine colorate gialle e verdi che pendevano su dei fili tesi da una finestra all'altra. C'erano alcuni tavolini all'aperto e qualche coppia ballava. Poi vide uno striscione di stoffa teso da un albero all'altro della piazza, dove c'era una enorme scritta: «Onore a Francisco Franco» e sotto, in lettere più piccole, «Onore ai militari portoghesi in Spagna». Sostiene Pereira che solo in quel momento capì che quella era una festa salazarista e per questo non aveva bisogno di essere presidiata dalla polizia. E solo allora si accorse che molte persone avevano la camicia verde e il fazzoletto al collo. Ed ora, in onore dei camerati italiani che combattono in Spagna, il giovane Monteiro Rossi si canterà la canzone più bella della sua magnifica patria. Pensò che forse Monteiro Rossi era uno dei loro e pensò al carrettiere alentejano che aveva macchiato di sangue i suoi meloni. C'erano due vecchietti che suonavano e poi, sostiene Pereira, a un certo punto vide alzarsi da un tavolino un giovane alto e snello con una camicia chiara che andò a mettersi fra i due vecchietti musicanti. E chissà perché sentì una fitta al cuore, forse perché gli sembrò di riconoscersi in quel giovanotto. E il giovane cominciò a cantare una canzone italiana, O Sole Mio, di cui Pereira non capiva le parole, ma era una canzone piena di forza e di vita, bella e limpida, e lui capiva solo le parole O Sole Mio, e non capiva altro. Grazie. Comunque capì che quel giovanotto che cantava era la persona con la quale aveva parlato per telefono nel pomeriggio. Così, quando costui ebbe finito di cantare, Pereira si alzò dalla panchina perché la curiosità era più forte delle sue riserve e si diresse al tavolino. Scusate. Oh. Dottor Pereira? Buonasera. Buonasera. Stia comodo. Dopo di lei. Lei appartiene alla gioventù nazionalista? Io sono laureato in filosofia. Glielo domando perché Lisboa è un giornale libero e indipendente e noi non vogliamo occuparci di politica. Ma io non mi interessa affatto di politica. Mi hanno pagato per cantare perché sono di origine italiana. Tutto qua. Perfetto. Dunque, mi parli del suo articolo sulla morte. Mi dica, ma la morte la interessa? Neanche un po'. A me interessa la vita. Mi scusi, ma sono stufo di morte. 2 anni fa è morta mia madre. L'anno scorso è toccata a mio padre. Ma come mai questa domanda? Sa, in un giornale, ogni volta che muore un intellettuale importante, bisogna fare l'elogio funebre. Ma un buon necrologio non si improvvisa. Sto cercando qualcuno che sappia scrivere un bel necrologio in anticipo. Come ho detto, io amo la vita, è vero, ma se lei vuole che parli della morte, mi paga, così come mi hanno pagato stasera per cantare, io sono pronto. Beh, come cantante, ma forse come giornalista sarà molto meglio. Ha detto di essere italiano di origine. Sì, esatto. Mi prepari dunque un bel necrologio in memoria di Rapagnetta. Rapa? Via, non mi dica che lei non sa chi è il più importante poeta italiano. Ah, sì, ma certo, per domani avrà il necrologio di Rafa... Netta. Ah, Rafa Netta, sicuro. La ragazza che arrivò, sostiene Pereira, portava un cappello di refe. Era bellissima, chiara di carnagione, con gli occhi verdi e le braccia tornite. Indossava un vestito con delle bretelle che si incrociavano dietro la schiena e che mettevano in risalto le sue spalle dolci e ben squadrate. Le presento Marta, il dottor Pereira, dirige la pagina culturale di Lisboa. Mi ha appena assunto. Da stasera sono un giornalista. Eh sì? Come vedi, ho trovato un lavoro. Ma è meraviglioso. Festeggiamo allora. Vieni, amore mio. Mi scusi, dottor Pereira. Andiamo. Pereira restò solo al tavolino, sostiene. Ordinò un'altra limonata e se la beve a piccoli sorsi guardando i ragazzi che ballavano lentamente guancia a guancia. Dopo il ballo, i ragazzi vennero a sedersi al tavolino con lui. E dica, anche lei si interessa di giornalismo? Un poco. Oggi il suo giornale non parla del carrettiere che la polizia ha massacrato al mercato. Non lo trova un po' strano? Purtroppo il direttore è in ferie. Io mi occupo soltanto di letteratura, ma dal prossimo sabato il nostro giornale avrà un'intera pagina dedicata alla cultura. Davvero interessante. Sì. Mi dica, dottor Pereira, lei non pensa che il massacro di un innocente dovrebbe occupare un poco anche lei? La prego, signorina, passi la voce. Si rende conto del luogo in cui siamo? Appunto, questo luogo mi sta dando ai nervi. Vedrà che tra un momento intoneranno marce militari. Sarà meglio che la lasci col suo nuovo assunto. Io ho bisogno di aria pulita. Marta! Marta! L'indomani mattina, quando Pereira si alzò, beve una tazza di caffè, fece un bagno, indossò la giacca, ma decise di non mettere la cravatta. Si sedette nella sua scrivania vicino alla finestra e a quel punto sentì bussare. Era Monteiro Rossi, accompagnato dalla signorina Marta. Avanti. Buongiorno. Buongiorno, dottor Pereira. Buongiorno. Le ho portato l'articolo che mi aveva chiesto. Ci ho lavorato tutta la notte. Bene, bravo. E Marta voleva... E io volevo scusarmi per come me ne sono andata ieri sera. Oh, sciocchezze. E poi volevamo festeggiare il suo ingresso nel mondo del giornalismo. Certo. Questo è vero vino italiano. Veramente, io non dovrei né bere né mangiare cose dolci. Ma data la circostanza farò un'eccezione. Grazie. Glielo leggo? Sì, certo, sì. Allora, vi lascio lavorare. Arrivederci, dottor Pereira. Arrivederci, signorina. Arrivederci. Ciao. Monteiro Rossi si accomodò e tirò fuori un foglio piegato in quattro. Gabriele D'Annunzio. I suoi ammiratori lo conoscono con questo nome, ma in realtà il suo vero nome è Rapagnetta, cambiato, perché non è abbastanza altisonante. È stato davvero un grande poeta. Se dovessimo descriverlo senza mezzi termini, non esiteremmo a definirlo un fanfarone. In realtà D'Annunzio era un guerrafondaio, un personaggio da non prendere ad esempio per la volgarità insopportabile delle sue idee. portato alle stelle dal fascismo, ha esaltato le sanguinose conquiste coloniali. Sostiene Pereira che mentre diceva questo sentiva un filo di sudore che gli colava lungo la schiena. Perché cominciò a sudare? Chissà, questo non sa dirlo con esattezza. Forse perché faceva un gran caldo, questo è fuori di dubbio, e il ventilatore non era sufficiente a rinfrescare quella stanza angusta. Con lui scompare un personaggio losco, capace delle peggiori... Giovanotto, o lei è un incosciente, oppure un provocatore. E il giornalismo che si foggi nel nostro paese non ha bisogno né degli uni né degli altri. Ma perché? Ma lei lo sa che D'Annunzio è il vate del fascismo italiano? E che i soldati italiani combattono con i nostri volontari in Spagna a fianco del generale Franco? E lo trova giusto? Non lo so e non lo voglio sapere. Io l'ho commissionato semplicemente un necrologio che lei mi porta... Posso riscriverlo? Posso fare un articolo completamente diverso? La prego, ho bisogno di guadagnare. Ma come può pensare che un giornale possa pagare una cosa simile? Ma bisogna veramente... si rende conto? Lo so che lei esige professionalità, certo. Lo so che dovrei lavorare col cervello, ma se devo dire la verità è che ho seguito le ragioni del cuore. Non la capisco. L'articolo su D'Annunzio. Giuro che sarei stato capace di scrivere un bel necrologio con la testa, ma il cuore è stato più forte. E poi? E poi? E poi sono innamorato di Marta. Ma io non vedo il rapporto. Sì che c'è un rapporto, è una ragione del cuore. La mia testa è altrove. Ascolti, ragazzo, si secca. I 10 comandamenti non lo dicono, ma lo dico io. Le ragioni del cuore sono le più importanti. Ma bisogna trovare un equilibrio. Con il cuore, sì, ma con gli occhi sempre bene aperti. Certo, lo so. Il prossimo necrologio sarà all'altezza delle sue aspettative. Lo spero. Dottor Pereira, deve sapere che ho bisogno di soldi. E allora? Vorrei chiederle un anticipo. Ma lei non ha scritto niente. Lo so, ma... Pereira avrebbe voluto dirgli che la sera precedente gli aveva già anticipato i soldi per comprarsi un paio di pantaloni nuovi e che evidentemente non poteva passare la giornata a dargli i soldi perché non era suo padre. Avrebbe voluto essere fermo e duro. Appena Monteiro Rossi uscì, Pereira si fermò davanti al ritratto di sua moglie e gli disse: quel ragazzo avrei dovuto licenziarlo, lo so. Se avessimo avuto un figlio, avrebbe la sua età. Ti ricordi, avevo sempre una ciocca che mi cadeva. Anche lui, sì, mi ricorda quando ero giovane. Email audiogrammi @radio24.it. Il venerdì seguente, Pereira vide, sostiene, una busta che faceva capolino dalla cassetta delle lettere. La prese e se la mise in tasca. Sul pianerottolo del primo piano trovò la portiera che gli disse: buongiorno, dottor Pereira, c'è una lettera per lei, è un espresso. L'ha portata al postino alle 9. Ho dovuto firmare io. Pereira borbottò un grazie fra i denti e continuò a salire le scale. Aprì la lettera. Era un articolo scritto a macchina e il titolo diceva: è scomparso Vladimir Majakovskij. Pereira sentì un tuffo al cuore, perché senza guardare nell'altra pagina capì che chi scriveva era Monteiro Rossi e perché capì subito che quell'articolo non serviva a niente. Era proprio un articolo da cestinare. Pereira prese il telefono e chiamò. Pronto, sono Pereira. Sì, stavo leggendo il suo articolo. Può darsi che lei sia un romanziere straordinario, solo che il mio giornale non è il luogo adatto per pubblicare romanzi. Majakovskij era un sovversivo. Le pare che la pagina culturale abbia interesse a celebrare la sua scomparsa? Le ragioni del cuore. Ma io non le ho mai detto di scrivere solamente con il cuore. Le ho detto piuttosto di aprire gli occhi. No, non posso vederla. No, oggi devo partire. Vuole un altro anticipo. Ma come può pensare che io sia pronto a darle un altro anticipo con quello che ha scritto? Bene, la saluto, eh. Pereira infilò il necrologio e la lettera in una cartellina dell'archivio e sulla cartella scrisse: necrologi. Quel sabato mattina, a mezzogiorno in punto, sostiene Pereira, il telefono squillò. era Monteiro Rossi, disse di trovarsi fuori città senza esattamente dire dove. Avrebbe desiderato da Monteiro Rossi una maggior cordialità e anche una maggior gratitudine, considerando che gli aveva appena spedito del denaro nella sua cassetta postale. Gli chiese quando poteva passare in redazione e la risposta di Monteiro rimase vaga. Fu allora che a Pereira parve di capire che c'era qualcosa che non andava, sostiene, e abbassando la voce, come se qualcun altro oltre a Monteiro Rossi potesse udirlo, gli chiese se avesse avuto dei problemi. Monteiro Rossi gli fece capire che non era il caso di parlare al telefono. Il telefono fece click e Pereira riattaccò a sua volta. Si sentiva inquieto, sostiene. Meditò sul da farsi e prese le sue decisioni. Nel pomeriggio avrebbe preso un treno per Coimbra e avrebbe raggiunto le terme. Certo avrebbe incontrato il suo direttore, questo era inevitabile. Acordei tremendo, deitada na areia, mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração. Mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração. Depois numa rocha uma cruz e o teu barco negro dançava na luz. Vi teu braço acenando entre as velas já soltas. Dizem as velhas da praia que não volta. São Quando Pereira arrivò alla stazione di Coimbra, ad aspettarlo c'era il suo amico Silva, seduto su una panchina, che fumava una sigaretta. Pereira sostiene che l'albergo delle terme era splendido. Un edificio bianco, una villa immersa in un grande parco. Salì in camera sua e si cambiò di abito. Indossò un vestito chiaro e una cravatta nera. Silva lo aspettava nella hall, sorseggiando un aperitivo. Pereira gli chiese se avesse visto il suo direttore. Silva gli strizzò l'occhio. Entrarono nel ristorante. Era una sala ottocentesca, affrescata con festoni di fiori sul soffitto. Il direttore stava cenando a un tavolo centrale in compagnia di una signora in abito da sera. Il direttore alzò la testa e lo vide. Sul suo viso si dipinse un'espressione meravigliata e con una mano gli fece cenno di avvicinarsi. Buonasera, signor direttore. Ah, dottor Pereira. Non mi aspettavo di vederla qui. Ha abbandonato la redazione? La pagina culturale è uscita oggi. Mi sono permesso di portargliela. Ecco, c'è un racconto di Maupassant e una rubrica che ho intitolato Ricorrenze. Vede, direttore, volevo comunicarle la mia decisione di assumere un praticante giusto per preparare i necrologi anticipati dei grandi scrittori che possono morire da un momento all'altro. Sa, con la morte è bene non farsi trovare impreparati. Dottor Pereira, sono qui a cena in gradita compagnia di una gentildonna, dall'animo sensibile. E lei non mi parla che di moribondi. Vorrei sapere quanto mi costerà questo suo praticante. Oh, no, no, è giovane, si accontenta, no? E in più le dirò, si è laureato con una tesi sulla morte, per l'appunto. Per favore, non ci parli più, di faccia come crede, d'accordo? D'accordo? Sì, sì, d'accordo. Allora, le lascio il giornale. Le auguro un buon soggiorno e prenda buona cura di sé, mi raccomando, direttore. I miei omaggi, signorina. L'indomani Pereira si svegliò alle 6, passò la mattinata alle terme e a mezzogiorno riprese il treno per Lisbona. Sostiene Pereira che il martedì seguente, quando arrivò in redazione, trovò la portiera che gli consegnò un espresso. Pereira lo prese e riconobbe subito l'inchiostro azzurro di Monteiro Rossi e la sua calligrafia svolazzante. E entrò in redazione e accese il ventilatore. Poi aprì la lettera. Egregio dottor Pereira, avrei bisogno di vederla con urgenza, appena torna. La saluto con devozione, Francesco Monteiro Rossi. Pereira stava seduto al suo tavolo, la giornata era calda e il ventilatore acceso. In quel momento sentì bussare. Si alzò, si avvicinò alla porta e vide Monteiro Rossi che entrò con quella sua aria imbarazzata, guardandosi intorno con circospezione. Pereira notò che indossava una bella camicia azzurra con il colletto bianco. «Se l'è comprata coi miei soldi», pensò per un momento Pereira. «Dottor Pereira, sono nei guai. Ho bisogno del suo aiuto». «Ebbene, si calmi. Cosa vuol dire nei guai?» «È arrivato mio cugino». «E con questo?» «Viene dalla Spagna. Combatte dalla parte dei repubblicani. È qui per reclutare volontari pronti a seguirlo». «Va bene, ma che c'entro io con tutto questo?» «Il problema è che ha bisogno di nascondersi per qualche tempo. Marta ha pensato che lei potrebbe...» «Potrei cosa?» «Di certo, lei è persona che nessuno sospetta». «Un momento, si metta seduto e si spieghi». «Grazie. Lei deve trovargli un posto sicuro». «Sono stupito della sua impudenza. Al nostro primo incontro, lei mi ha detto di non interessarsi affatto di politica. Lei mi ha mentito». Ma è per mio cugino, per aiutare mio cugino. Posso contare solo su di lei». «Su di me?» «Lei non può abbandonarci così. Ad ogni modo è già qui». «Qui dove?» «Buongiorno. Mio cugino, Bruno Rossi». «Dottor Pereira, io vorrei ringraziarla». «Sì, sì, sì. Venite con me, sì. Venite». «Dottor Pereira, le prometto che si tratta solo di qualche giorno». «Siete due incoscienti». Il signor Bruno Rossi non disse niente. Si limitò a guardarsi intorno con aria sospettosa. Lontano si udì il fischio di un'ambulanza e il signor Bruno Rossi si irrigidì e andò alla finestra. «Ora ascoltatemi bene. Io non parteggio né per la causa monarchica né per la causa repubblicana. Non so se potrò trovare una sistemazione, ma in ogni caso stia ben attento a non cercarmi un'altra volta, perché io non voglio avere niente a che fare con simili faccende». «Ma io mi aspettavo un compagno». «Stai zitto». «Cosa?» «Non si arrabbi, dottor Pereira, la prego». Pereira diede un foglietto a Bruno Rossi con l'indirizzo di una pensioncina dove nessuno gli avrebbe chiesto niente, neanche i documenti. «Nasceu de ser português, fez a vida pelo mundo. Foi pro sonho vagabundo, foi pela terra abraçado, bem querido ou mal amado. O fado, bem querido ou mal amado. O fado». Pereira dormì 3 ore, dalle 6 alle 9 del mattino. Poi si alzò, fece un bagno fresco, prese un caffè, entrò nella sua stanza, si sedette alla scrivania e fece il numero del dottor Costa, il suo medico. Gli disse che faceva fatica a salire le scale e di aver preso qualche chilo. Il dottor Costa gli suggerì di ricoverarsi qualche giorno alla clinica talassoterapica di Parede. Gli disse che curano reumatici e cardiopatici con metodi naturali. Fanno bagni di alghe, massaggi e cure dimagranti, e poi ci sono dei dottori bravissimi che hanno studiato in Francia. Pereira sostiene che si rassegnò ad accettare di passare una settimana alla clinica talassoterapica di Parede e autorizzò il dottor Costa a prenotargli una camera per l'indomani. Ma ci tenne a specificare che prima doveva avvertire il suo direttore per un motivo di correttezza. L'indomani Pereira si alzò presto, sostiene. Prese il caffè, preparò una piccola valigia, poi uscì nella luce abbagliante del meriggio e si diresse al treno. Quando arrivò a Parede, erano quasi le 2:30. «Cada vez mais português anda nas asas do vento, às vezes solta um lamento e pede para ser achado. Ele é querido, ele é amado. Fine primo tempo. Il secondo tempo di Sostiene Pereira è domenica prossima alle 20:10 su Radio 24. Audiogrammi è un programma ideato e condotto da Laura Faggin e Paolo Corleoni. Voce Laura Faggin. I love you just the way you are. A cinema. A cinema.